Proprio allora, Mr. Solomon e Mr. John erano saliti di sopra quell'avvocato per cercare il testamento e Mrs. Whale, al vedere due sedie libere fra lei e Mr. Trumbull, ebbe il coraggio di avvicinarsi a quella grande autorità che stava giocherellando con i suoi sigilli e si assettava i lineamenti, deciso a non rivelare alcuna sorpresa o stupore, compromettenti per un uomo delle sue capacità. Suppongo che sappiate tutto quello su quello che il mio povero fratello ha fatto, Mr. Trumbull, disse Mrs. Whale col più basso dei suoi toni confusi, mentre volgeva il cappellino con la falda di crespo verso l'orecchio di Mr. Trumbull. Mia buona signora, tutto quello che so mi è stato detto in confidenza, disse il banditore, alzando la mano alla bocca per difendere quel segreto. Quelli che sono sicuri della loro fortuna possono ancora restare delusi, continuò Mrs. Whale, trovando un certo sollievo nel comunicargli questo. Le speranze spesso deludono, disse Mr. Trumbull ancora in confidenza. Fece Mrs. Whale lanciando un'occhiata ai Vincy e poi tornando accanto alla sorella Martha. È sorprendente quanto era riservato il povero Peter, disse sempre sottovoce. Nessuno di noi sa cosa potesse avere in mente. Spero solo e mi auguro che non abbia vissuto peggio di quanto pensiamo, Martha. La povera Mrs. Cranch era grassa e respirando con l'asma aveva un motivo in più per fare delle osservazioni irreprensibili e conferire ad esse un senso generale, poiché persino i suoi sussurri erano sonori e soggetti a improvvisi scoppi come quelli di un organetto guasto. Io non sono mai stata avida, ribatté, ma ho sei figli e ne ho seppelliti tre e non ho sposato uno ricco. Il più grande, che è seduto là, non ha che 19 anni. Quindi ti lascio immaginare, e le scorte sempre scarse e la terra molto arida. Ma se mai ho pregato o implorato, l'ho fatto con Dio che sta in cielo. Per quanto, se c'è un fratello scapolo e l'altro senza figli, dopo essersi sposato due volte, chiunque potrebbe pensare. Frattanto, Mr. Vincey aveva rivolto un'occhiata al volto impassibile di Mr. Rigg e, estratta la propria tabacchiera, l'aveva abbattuta, ma per poi rimetterla ancora a posto senza aprirla, in quanto era una debolezza che, sebbene l'aiutasse a schiarirsi le idee, non era adatta all'occasione. Non mi meraviglierei se Thurston avesse avuto dei sentimenti migliori di quanto uno qualsiasi di noi gli attribuisse, osservò l'orecchio della moglie. Questo funerale dimostra che ha pensato a tutti. Fa una bella impressione quando uno vuole essere seguito dagli amici e se questi sono umili non se ne vergogna. Mi farebbe ancora più piacere se avesse lasciato tanti piccoli legati. Possono essere insolitamente utili a della gente che vive a ristrettezze. Tutto è perfetto, crespo e seta e ogni cosa, disse Mrs. Vincy con aria contenta. Ma mi duole dire che Fred incontrava una certa difficoltà a reprimere una risata, che sarebbe stata meno in tono delle tabacchiere del padre. Fred aveva udito per caso Mr. Jonah che avanzava una qualche ipotesi su un figlio dell'amore, e con questo pensiero in mente, la faccia dell'estraneo che il caso voleva fosse davanti a lui lo colpì come troppo ridicola. Mary Gert, notando dai contorcimenti della bocca e dal ricorrere a un colpo di tosse che si trovava in difficoltà, ebbe il buon senso di andargli in aiuto, chiedendogli di scambiare il suo posto con lei, cosicché venne a trovarsi in un angolo in ombra. Fred si sentiva il più possibile ben disposto verso ognuno, compreso Rig, e preso da una certa commozione per tutta quella gente che era meno fortunata di quanto egli sapeva di essere, non si sarebbe voluto comportare male per tutto l'oro del mondo. Comunque, era particolarmente difficile non ridere. Ma l'ingresso dell'avvocato e dei due fratelli attirò l'attenzione di tutti. L'avvocato era Mr. Standish ed era venuto a Stone Court quella mattina credendo di sapere in tutto e per tutto chi sarebbe rimasto compiaciuto e chi deluso prima che la giornata fosse finita. Il testamento che si aspettava di leggere era l'ultimo di tre che egli aveva redatto per Mr. Thurston. Mr. Standish non era uno portato a mutare il proprio modo di fare a seconda delle situazioni. Si comportava con la stessa disinvolta educazione verso tutti, come se non vedesse in loro alcuna differenza, e parlava soprattutto del raccolto del fieno che sarebbe stato molto buono per Dio. Negli ultimi bollettini sulla salute del re e del duca di Clarence, che era un marinaio dalla testa ai piedi e proprio l'uomo adatto per governare un'isola come la Gran Bretagna. Il vecchio Thurston aveva spesso riflettuto mentre sedeva a guardare il fuoco che Standish un bel giorno sarebbe rimasto sorpreso. È vero che se avesse fatto come in ultimo voleva fare e avesse bruciato il testamento redatto da un altro avvocato, non avrebbe realizzato questo scopo minore. Comunque aveva ricavato la sua dose di piacere nel ruminarci sopra. E certo, Mr. Standish rimase sorpreso, ma per nulla addolorato. Al contrario, gli piacque alquanto in cuor suo quella nota piccante di curiosità che la scoperta di un secondo testamento aggiungeva alla potenziale sorpresa da parte della famiglia Farstone. Quanto a Solomon e a Jonah, avevano il fiato del tutto sospeso. A loro sembrava che il vecchio testamento dovesse avere una certa validità e che ci dovesse essere un tale intreccio fra le prime e le ultime intenzioni del povero Peter da creare cause legali a non finire prima che ognuno venisse in possesso della propria parte. Un inconveniente che almeno avrebbe avuto il vantaggio di coinvolgere tutti. Perciò i fratelli mostrarono una gravità assolutamente neutrale quando rientrarono con Mr. Standish, ma Solomon estrasse di nuovo il proprio fazzoletto bianco per la sensazione che ci sarebbero stati in ogni caso passi commoventi, e il pianto ai funerali, per quanto arido, era di solito servito in batista. Forse la persona che in questo momento provava l'eccitazione più fremente fu Mary Garth. Consapevole di essere stata virtualmente lei a determinare l'apparizione di questo secondo testamento che avrebbe potuto avere effetti di gran peso sul destino di alcune persone presenti. Ciò che era accaduto quell'ultima notte non lo sapeva anima viva tranne lei. Il testamento che tengo in mano, disse Mr. Standish, il quale seduto al tavolo in mezzo alla stanza se la prese comoda in tutto, compresi i colpi di tosse con cui mostrò l'intenzione di schiarirsi la voce. È stato redatto da me e firmato dal nostro defunto amico il 9 agosto 1825. Ma scopro che vi è un atto successivo, finora a me ignoto, che porta la data del 20 luglio 1826, neppure un anno dopo il precedente. E vi è inoltre, vedo, Mr. Standish stava attentamente scorrendo il documento con gli occhiali, un codicillo a quest'ultimo testamento che porta la data del 1 marzo 1828. Dio, Dio, disse sorella Marta, senza volersi far sentire, ma spinta a un qualche vocalizzo da questa insistenza di date. Comincerò con leggere il primo testamento, continuò Mr. Standish, poiché tale, come dimostra il fatto di non aver distrutto il documento, era l'intenzione del defunto. Il preambolo fu considerato piuttosto lungo e diversi, oltre Solomon scossero il capo con aria patetica, guardando a terra. Tutti gli occhi evitarono di incontrare altri occhi ed erano fissi sulle macchie della tovaglia o sul capo calvo di Mr. Standish, tranne quelli di Mary Garth. Quando tutti gli altri non cercavano di guardare da nessuna parte in particolare, lei poteva tranquillamente guardarli e al suono del primo lascio e trasmetto, essa vide tutti i volti mutare impercettibilmente, come se fossero percorsi da una qualche debole vibrazione, tranne quello di Mr. Rick. Egli sedeva con calma inalterata, in effetti la compagnia, preoccupata da problemi più importanti e con la complicazione di ascoltare dei lasciti che potevano o no venire revocati, aveva smesso di pensare a lui. Fred arrossì e Mr. Vincey trovò impossibile fare senza la tabacchiera in mano, sebbene la tenesse chiusa. I piccoli lasciti venivano prima e anche il ricordo che ci fosse un altro testamento e che il povero Peter avesse cambiato idea non poté soffocare il disgusto e l'indignazione crescenti. A uno piace essere trattato bene in ogni tempo, passato, presente e futuro. E qui Peter, 5 anni prima, aveva avuto il coraggio di lasciare solo 200 sterline a testa ai propri fratelli e sorelle e solo 100 sterline a testa ai propri nipoti. I Gert non venivano ricordati. Ma Mrs. Vincy e Rosamond dovevano avere ciascuna 100 sterline. Mr. Tremble doveva avere il bastone dal pomodoro e 50 sterline. Gli altri cugini di secondo grado e i cugini presenti dovevano avere la stessa generosa somma che, come osservò il cugino taciturno, era una specie di lascito che non portava niente. E vi erano molte altre offensive donazioni a favore di persone non presenti, parenti dubbi e, come c'era da temere, parenti di basso rango. Tutto sommato, dopo un calcolo affrettato, in questo modo erano distribuite circa 3.000 sterline. Allora, Peter, dove aveva voluto che andasse a finire il resto del denaro? E dove le terre? E cosa veniva revocato e cosa no? E la revoca era in meglio o in peggio. Ogni sentimento doveva essere condizionale e si poteva rivelare infondato. Gli uomini erano abbastanza forti da farsi coraggio e starsene calmi in questa incertezza confusa, alcuni lasciando cadere il labbro inferiore, altri increspandolo secondo l'abitudine dei loro muscoli. Ma Jane e Martha affondarono sotto un'ondata di domande e si misero a piangere. La povera Mrs. Cranch era per metà commossa dalla consolazione di ottenere comunque un centinaio di sterline e per metà consapevole che la sua parte era scarsa, mentre la mente di Mrs. Whale era interamente sommersa dal pensiero di essere una sorella consanguigna e di aver ottenuto poco, mentre qualcun altro avrebbe avuto molto. La tesi generale ora era che il molto toccasse a Fred Vincey, ma i Vincey stessi furono sorpresi quando 10.000 sterline in investimenti specifici furono dichiarate sue per l'ascito. Sarebbero venute anche le terre? Fred si morse le labbra. Era difficile trattenersi dal sorridere e Mrs. Vincey si sentì la più felice delle donne. In questa visione abbagliante, una possibile revoca si restringeva fino a diventare invisibile. Era ancora un residuo di proprietà personale, oltre alle terre, ma il tutto veniva lasciato a una sola persona e questa persona era, o possibilità, o attese fondate sul favore di vecchi gentiluomini riservati, o vocativi interminabili che avrebbero ancora lasciato sfuggire impotente l'espressione dalla misura della follia umana. Quel legatario residuo era Joshua Rigg, il quale era anche unico esecutore testamentario e doveva da allora in poi prendere il nome di Fir Stone. La sala fu percorsa da un fruscio che parve un brivido. Ognuno guardò di nuovo fisso Mr. Rigg, il quale apparentemente non provava alcuna sorpresa. Singolarissima disposizione testamentaria, esclamò Mr. Tremble, una volta tanto preferendo essere considerato all'oscuro del passato. Ma c'è un secondo testamento, c'è cioè un documento posteriore. Non abbiamo ancora sentito i desideri definitivi del defunto. Mary Gertz aveva la sensazione che ciò che dovevano ancora ascoltare non erano i desideri definitivi. Il Secondo Testamento revocò tutto tranne i lasciti alle persone di basso rango menzionate in precedenza. Alcune alterazioni riguardo costoro erano il motivo del codicillo e lasciava tutte le terre dislocate nella parrocchia di Lowick con tutto il bestiame e i mobili a Joshua Rigg. Il restante della proprietà doveva essere devoluto alla costruzione e alla donazione di case di riposo per vecchi, da chiamarsi Case di Riposo di Firstone e da costruirsi su un appezzamento di terreno in prossimità di Middlemarch, già acquistato allo scopo dal testatore, che desiderava, così dichiarava il documento, fare cosa gradita a Dio Onnipotente. Nessuno dei presenti riceveva un centesimo, ma a Mr. Tremble andava il bastone dal pomodoro. Ci volle un certo tempo prima che la compagnia riacquistasse la capacità di esprimersi. Mary non osava guardare Fred. Mr. Vincey fu il primo a parlare, dopo essere ricorso con abbondanza alla propria tabacchiera, e si espresse con sonora indignazione. Il testamento più inesplicabile che abbia mai sentito. Io direi che non era sano di mente quando l'ha fatto. Direi che quest'ultimo testamento è nullo, aggiunse Mr. Vincey, pensando che questa espressione metteva la cosa nella luce giusta. Standish? Il nostro amico defunto sapeva sempre quello che faceva, credo, disse Mr. Standish. Ogni cosa è assolutamente in regola. Ecco una lettera di Clemens di Bressing allegata al testamento. L'ha redatta lui, un procuratore assai rispettabile. Io non ho mai notato alcuna alienazione mentale, alcuna aberrazione dell'intelletto nel fu Mr. Thurston, disse Borthrop Tremble. Ma questo testamento lo definisco eccentrico. Mi sono sempre prestato volentieri a servire la buon'anima. Ed egli mi aveva fatto capire abbastanza chiaramente di provare un senso di obbligo di cui avrebbe dato prova nel testamento. Il bastone dall'impugnatura d'oro è una farsa, si è considerato un segno di riconoscimento nei miei confronti, ma fortunatamente io sono al di sopra di considerazioni mercenarie. Nella faccenda non c'è niente di molto sorprendente, a mio parere, disse Caleb Garth. Chiunque avrebbe avuto maggiori motivi per stupirsi se il testamento fosse stato quello che ci si potrebbe aspettare da un uomo leale di larghe vedute. Per parte mia, vorrei che non esistessero cose come i testamenti. Sto Strana idea per un cristiano, per Dio, disse l'avvocato. Gradirei sapere con quali ragioni giustificate un'idea simile, Gert. Oh, fece Caleb, piegandosi in avanti, aggiustandosi le punte delle dita con proprietà e guardando a terra con aria meditativa. Sembrava sempre che le parole fossero la parte più ardua degli affari. Ma a questo punto si fece sentire Mr. Jonah Thurston. Beh, è sempre stato un bel ipocrita, mio fratello Peter, ma questo testamento le supera tutte. Se lo avessi saputo, un carro con 6 cavalli non sarebbero stati capaci di trascinarmi via da Bressing. Domani mi metto addosso un cappello bianco e una giacca grigia. Dio, Dio, disse piangendo Mrs. Cranch. E noi che abbiamo speso tanto per il viaggio. E quel povero ragazzo è rimasto seduto qui per tanto tempo senza far niente. È la prima volta che sento dire che mio fratello Peter era così desideroso di fare una cosa gradita all'Onnipotente. Ma se dovevo restare senza aiuto, devo dire che è crudele. Non posso pensare altro. Non gli farà bene, per dove è andato a finire. Così credo io, disse Solomon, con un'amarezza notevolmente sincera, sebbene il suo tono non potesse evitare di risultare circospetto. Peter ha vissuto male e le case di riposo non potranno nasconderlo, quando ha avuto l'impudenza di mostrarlo fino in fondo. E tutto il tempo ha avuto la sua famiglia legittima, fratelli, sorelle, nipoti, e in chiesa si è seduto assieme a loro quando pensava bene di andarci, disse Mrs. Wade. E avrebbe potuto lasciare così onorata la sua proprietà, dandola a quelli che non sono mai stati abituati agli sperperi e alle incostanze in nessun modo. E non così poveri che non avrebbero potuto risparmiare ogni soldo e farne degli altri. E io, la briga che mi sono presa per volte e volte a venire qui e fargli da sorella, e lui sempre con delle cose in mente che potrebbero far venire la pelle d'oca a chiunque. Ma se l'onnipotente l'ha permesso, lo punirà per questo. Fratello Solomon, me ne vado se mi accompagni a casa in carrozza. Non desidero mettere più piede in questo posto, disse Solomon. Ho delle terre e delle proprietà mie da lasciare nel testamento. È triste come la fortuna gira nel mondo. Non serve mai avere un po' di spirito. Sarebbe meglio che uno facesse il guastafeste, ma quelli che campano potrebbero imparare una lezione. Un testamento stupido è sufficiente in una famiglia. C'è più di un modo di essere uno stupido, disse Solomon. Non lascerò i miei soldi perché siano sperperati e non li lascerò a dei trovatelli dall'Africa. Mi piacciono i Thurston che sono venuti al mondo tali e non quelli che lo sono diventati appiccicandosi addosso il nome. Solomon rivolse queste osservazioni in un sonoro a parte a Mrs. Whale mentre si alzava per accompagnarla. Fratello Jonah si sentiva capace di uno spirito molto più pungente di questo, ma rifletté che non aveva senso offendere il nuovo proprietario di Stone Court, almeno finché non fosse stato certo che non aveva nessuna intenzione di ospitare degli uomini di spirito di cui stava per assumere il nome. Mister Joshua Rigg, in effetti, non parve curarsi molto di alcuna allusione, ma mostrò un notevole cambiamento di modi, dirigendosi freddamente da Mister Standish e sottoponendogli con freddezza dei problemi di affari. Aveva una voce acuta e stridula e un accento detestabile. Fred, che questi non muoveva più al riso, pensò che fosse il mostro più ignobile che avesse mai visto. Ma Fred si sentiva piuttosto male. Il venditore di tessuti di Middlemarch attese l'occasione buona per intrattenersi in conversazione con Mr. Rigg. Non si poteva mai sapere per quante paia di gambe il nuovo proprietario potesse aver bisogno di pantaloni e i profitti erano più sicuri dei lasciti. Inoltre, il commerciante, in quanto secondo cugino, era abbastanza calmo per provare curiosità. Mister Vincey, dopo l'unico scatto, era rimasto orgogliosamente muto, anche se troppo preoccupato da sentimenti sgradevoli per pensare di andarsene, finché non notò che la moglie era andata al fianco di Fred e stava piangendo silenziosamente mentre stringeva la mano al proprio prediletto. Egli si alzò immediatamente, rivoltate le spalle agli altri, mentre le diceva sottovoce: «Non lasciarti andare, Lucy, non fare la stupida di fronte a questa gente», aggiunse con la voce sonora di sempre. Ordinare il phaeton, Fred, non ho tempo da perdere. Mary Garth, ancora prima, si era preparata ad andare a scuola col padre. Incontrò Fred nell'ingresso e ora per la prima volta ebbe il coraggio di guardarlo. Aveva quel genere di pallore appassito che talvolta assumono i volti giovani e aveva la mano assai fredda quando lei gliela strinse. Anche Mary era agitata. Era consapevole di avere, senza volerlo, per una fatalità, reso il destino di Fred assai diverso. Arrivederci, disse con affettuosa tristezza. Coraggio, Fred. Credo davvero che sia stato un bene che non ti siano toccati i soldi. A che cosa sono serviti? A Mr. Fairstone. Questo è tutto molto carino, disse Fred con stizza. Cosa deve fare uno adesso? Io devo farmi prete ora. Sapeva che questo avrebbe aiutato Mary molto bene, allora gli doveva dire lei cos'altro poteva fare. E pensavo che avrei potuto pagare tuo padre subito e raddrizzare ogni cosa. E a te non sono state lasciate neppure 100 sterline. Cosa farei adesso, Mary? Prenderò un'altra occupazione, naturalmente, appena potrò trovarla. Mio padre ha abbastanza da fare per mantenere gli altri senza di me. Arrivederci. In brevissimo tempo, Stone Court si svuotò dei Firston e di altri visitatori da lungo tempo abituali. Un altro estraneo era venuto a stabilirsi nel distretto di Middlemarch, ma nel caso di Mr. Rick Firston, il malcontento per le evidenti conseguenze immediate fu maggiore delle speculazioni sull'effetto che la sua presenza avrebbe potuto avere in futuro. Nessun'anima fu abbastanza profetica da avere alcuna premonizione di ciò che sarebbe potuto apparire sulla scia di Joshua Rick. E a questo punto sono naturalmente indotta a riflettere sui mezzi di elevare un argomento di basso rango. I paralleli storici sono eccezionalmente rivelatori in questo senso. La principale obiezione ad essi è che il narratore diligente può essere a corto di spazio oppure, ciò che è spesso la stessa cosa, può non essere in grado di esporli con un qualsiasi grado di precisione, per quanto possa nutrire la fiducia filosofica che una volta resi noti essi sarebbero illustrativi. Sembra una via più facile e più breve per giungere al decoro, osservare che dal momento che non c'è mai stata una storia vera, che non si potesse raccontare per parabole, dove uno poteva mettere una scimmia al posto di un margravio e viceversa, qualunque cosa sia stata o debba essere narrata da me su delle persone di basso rango, può essere nobilitata considerandola una parabola. Cosicché, se vengono sottoposte alla vista delle cattive abitudini e delle brutte conseguenze, il lettore può avere il sollievo di considerarle volgari solo in senso figurato e può sentirsi virtualmente in compagnia di persone di un certo stile. Così, mentre dico la verità su dei sempliciotti di campagna, la fantasia del mio lettore non è necessario che si disinteressi completamente dei lord, e le somme modeste con cui qualsiasi bancarottiere di alto rango si spiacerebbe di andare in pensione possono essere elevate al livello di alte transazioni commerciali, con l'aggiunta economica di zeri in proporzione. Quanto a una qualsiasi storia di provincia, i cui protagonisti sono tutti di alta levatura morale, deve essere collocata a una data di molto posteriore alla prima legge di riforma. E Peter Firston, lo sapete, era morto e sepolto da alcuni mesi quando Lord Grey andò al potere.